Al-Mulk. La sovranità. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Benedetto colui nella cui mano è la sovranità, egli onnipotente. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Colui che ha creato la morte e la vita per mettere alla prova chi di voi meglio opera. Egli è l'eccelso, il perdonatore. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Colui che ha creato sette cieli sovrapposti senza che tu veda alcun difetto nella creazione del compassionevole. Osserva, vedi una qualche fenditura? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Osserva ancora due volte. Il tuo sguardo ricadrà stanco e sfinito. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. In vero abbellimmo di luminari al cielo più vicino e ne abbiamo fatto strumenti per lapidare i demoni per i quali abbiamo preparato la fiamma. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Per coloro che non credono nel loro Signore, c'è il castigo dell'inferno. Qual tristo divenire! إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Quando vi sono precipitati, ne sentono il fragore mentre ribolle. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Manca poco a che scoppi di rabbia. Ogni volta che un gruppo vi è precipitato, i suoi guardiani chiedono: non vi è forse giunto un ammonitore? قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Risponderanno: sì, ci era giunto un ammonitore, ma noi lo tacciamo di menzogne e dicemmo: Allah non ha fatto scendere alcunché. Voi siete in evidente errore. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. E diranno: se avessimo ascoltato o compreso, non saremmo tra i compagni della fiamma. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Riconoscono il loro peccato, che siano ridotti in polvere i compagni della fiamma. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Coloro che invece temono il loro Signore in ciò che è invisibile avranno perdono e ricompensa grande. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Sia che nascondiate i vostri intenti o li palesiate, egli ben conosce quello che contengono i petti. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Non conoscerebbe ciò che egli stesso ha creato quando egli è il sottile, il ben informato? هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Egli è colui che vi ha fatto remissiva la terra. Percorretela in lungo e largo e mangiate della sua provvidenza. Verso di lui è la resurrezione. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Siete forse sicuri che colui che sta nel cielo non vi faccia inghiottire dalla terra quando trema? Am amintum man fis samai an yursila alaykum hasiba fasata'lamun kayfa nadhir. O siete sicuri che colui che sta nel cielo non scateni contro di voi un uragano? Conoscerete allora il mio avvertimento. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Invero coloro che li precedettero già tacciarono di menzogna. Quale fu la mia riprovazione? أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Non hanno visto sopra di loro gli uccelli spiegare e ripiegare le ali? Non li sostiene altri che il compassionevole. In verità egli osserva ogni cosa. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Chi potrebbe costituire un esercito per voi e chi potrebbe soccorrervi all'infuori del compassionevole? I miscredenti sono in preda all'inganno. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Chi provvederà a voi se gli tratterrà la sua provvidenza? No, essi persistono nell'insolenza e nel rifiuto. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Colui che cammina con il volto rivolto al suolo è forse meglio guidato di colui che si erge camminando sulla retta via? قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Di, egli è colui che vi ha creati e vi ha dato l'udito, gli occhi e i cuori. Quanto poco gli siete riconoscenti. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Di, egli è colui che vi ha sparsi sulla terra e verso di lui sarete riuniti. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dicono, a quando questa promessa? Ditecelo se siete veridici. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Di, la conoscenza di ciò appartiene ad Allah. Io non sono altro che un ammonitore esplicito. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Quando la vedranno da vicino, saranno stravolti i visi dei miscredenti. E sarà detto loro, ecco ciò che vi ostinavate a chiedere. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Di, cosa credete? Sia che Allah faccia perire me e quelli che sono con me, sia che ci usi misericordia, chi potrà proteggere i miscredenti da un doloroso castigo? قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Di, egli è il compassionevole. Crediamo in lui e in lui confidiamo. Presto saprete chi è in errore evidente. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ يأتيكم بماء معين. Di, cosa credete? Se la vostra acqua rientrasse nelle profondità della terra, chi vi procurerebbe acqua sorgiva?